Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini col tuo cognome da mezza sega, con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega, e non mi piaci tu, mezza sega. Ma il cielo è sempre più blu. Noi non abbiamo nessuno scheletro nell'armadio e la posizione del governo è molto chiara su questo tema. Siamo stati noi a fare un decreto per ridurre il numero delle banche con le popolari e ci hanno fatto ostruzionismo. Non consentiremo al titolo di un giornale di cambiarci la giornata. Gli americani, quando pensano all'Italia, dicono wow, anche troppo, no? Wow, tre lettere, wow. E gli italiani usano tre lettere e dicono ma. Chi è assunto alla zecca, chi ha fatto cilecca, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende a sé poco. Lo danno un po' in difficoltà, lo danno un po' in difficoltà. E lui Renzi attacca i giornali. È colpa dei giornali e stasera va porta a porta. Quando sei un po' in difficoltà vai lì. Quando sei un po' in difficoltà vai a Bruno Vespa, porta a porta. Sono i giornali, dicono che non abbiamo fatto le cose, l'avete sentito, no? Ha fatto il titolo peggiore dei giornali, il contest alla Leopolda. Che devi fare? È un po' in difficoltà. Il ministro Boschi in difficoltà. Non mollo. C'è la mozione di sfiducia alla Camera del Movimento 5 Stelle. Beh, mozione di sfiducia che chiaramente non passerà. È già tutto scritto come voti. Ma la Boschi dice, raccontano in retroscena, è nel momento più di difficoltà, dell'ultimo anno e mezzo. Ma non molla, dice lei, non ho mai lasciato nulla a metà in vita mia, nemmeno un libro. Chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia. Poi straordinario c'è l'incitamento della mamma. Vai, vai! E pensi, il Corriere della Sera, in mancanza dell'intervista al papà e in mancanza dell'intervista al fratello che lavorava a Barchetruian, intervista la mamma della Boschi. È una preside che dice vai avanti. Cerco l'estate. Oh, fantastica, questa è la Leopolda, hanno fatto il karaoke di Azzurro alla Leopolda, è straordinario. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro. Forza! Senza dire, allora io quali prendo il treno. Un po' freddino, come karaoke. C'è un po' fatica a scaldare questa platea. Nei miei pensieri all'incontrario va. Allora, voglio subito alle 6:33 minuti, salutando Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia, un nostro ascoltatore che ci segue dalla Romania. Dalla Romania. Voglio salutare subito il nostro amico Vincino. Vincenzo, io. Dove è scomparso, Vincenzo? Eccoci. Eccoci qua. Eccoci. Come stai? Tutto a posto? Abbastanza. Bella questa, diciamo, cosa di azzurro il pomeriggio. L'hai sentita la Leopolda? Sì, l'ho sentita. Io devo dire, la Leopolda la scioglierei per insurrezione ai poteri dello Stato. Come associazione eversiva. Eh sì, non è, cioè, sta esagerando. È un partito eversivo, sta diventando la Leopolda, no? Addirittura. No, poi devo dire, è bellissima questa cosa dell'attacco ai giornali, che lui dice però c'ha due giornali alleati. Sì. La Pravda, La Verità e Il Tempo di Roma, quel giornaletto là della cosa, no? Una è la Pravda. Sì, lui, il vero problema suo, lo sai qual è? Lui deve dire a suo padre: papà, tu non devi fare più niente, non devi più lavorare né andare da nessuna parte in Italia, per favore, statti buono, chiuso a casa e non uscire più. Il papà, da quando il io papà, sto al governo, e non c'è, o se no lo devi ammazzare, e basta. Anche questa potrebbe essere una soluzione un po' più cruenta. Va bene, insieme a Vincino c'è la nostra! Cos'è che sento dei suoni già? La nostra Aurora Lussana. Aurora! Buongiorno Milan, un caro saluto a te, un caro saluto Ciao, agli amici sento di Radio 24. Degli inquietanti suoni a casa tua. No, è che stamattina la prima cosa che ho letto è l'intervista di mamma Boschi. E allora, per tirare sulla pressione, ho bisogno, come sempre, del mio Giuseppe Verdi. Ho messo i Lombardi alla prima crociata. I Lombardi alla prima crociata? Sì. Oh, sì. Evviva! Mi aiuta a riprendermi. Senti un po', mi fai una bella... Cos'è il finale dei Lombardi? No. Dai, io, signore dal tetto natio, che loro sono lì, sono fare le crociate, ripenso la loro terra lombarda. Senti. Questa è musica. Ma tu quando vai alla Scala la commenti così? Che meraviglia. Dovrebbero far studiare un pochino più il Verdi. Senti, me la fai un'imitazione della Boschi? Come, cosa potrà dire in questo momento, in questi giorni? Dopo che ha detto che il suo babbo è una personcina tanto per bene, anche la sua mamma. È veramente un matrimonio democristiano questo che ha generato la nostra ministra Bossero. Si sono conosciuto un comizio della Democrazia Cristiana, lei vice sindaco del paese, lui banchiere, lì figura la banca del territorio. E va bene, si sono conosciuti. È una gran bella famiglia, poi gli diventa nonna, ha detto a Marma, così non diventa molto, nonna, molto è vero. Il fratello della Boschi. Quello che lavora in banca. Quello che lavorava in banca, credo. Mi ha sposato una che lavorava in banca. Sì, e va bene. Ecco. Sono cose che capitano. Sono riprodotti e a marzo nascerà una bimba. No, una bimba, la mamma della Boschi, la principessina, nascerà la principessina. Che meraviglia. Vabbè, ma sono tutti nipotini, sono principessini. È così. Il Vabbè. Volto angelico del governo, hai visto cosa nascondeva? No, ma cosa nascondeva Vincino? Cosa nascondeva? Non lo so. Non nascondeva niente. Dai, non si sa. È stata una grande riformatrice, là era al Senato, era bellissima. Bellissima, stupenda, che faceva tutte le due riforme. Due anni via. Dai, finito? No, ancora no. Ha fatto tutte le riforme in due anni. Cosa nasconde? Il Corriere mette sulla foto di almeno 10 kg fa, perché sarà la cosa, la foto del giuramento. Questa è un po' sessista, eh? No, una ragazza ancora tuttora splendida, è un pochino più formosa, bella, forse più bella adesso, eccola. Ecco, appunto, 10 kg fa. Più o meno. Questo neanche Vincino l'aveva notata, Il Corriere oggi mette una foto della Boschi, 10 kg. Io lo vedi, non è che, cioè, sono le 6:30 e qualcosa, non è che sono uscito di casa, non abbiate lo pietà, abbiate pietà, dice. Esatto, ho visto poi, è morto Cossutta. È vero, è morto Cossutta. È vero, no, attenzione, è morto Armando Cossutta. Cos'è, stai malissimo? No, è come dire, se ne va un pezzo della storia. Comunista, vero? Dal 43, partigiano. Io ho conosciuto la figlia che ha fatto, non so, la parlamentare 20 anni, la Maura Cossutta, è possibile. Non lo so, può essere. Avevi conosciuto la figlia. Sì, quando facevo la cronista. Facevi la cronista, è vero, facevi la cronista parlamentare. Quando ero giovane, Milano, ormai. Ma che quando eri giovane? Mamma mia, ma è il momento dello scoramento questa 24 mattino. Non abbiamo aperto il parlamento, tra l'altro. Ma secondo... scusa, una donna dopo i 25 anni dalle tue parti. Prendere un caffè. Una donna dopo. Una donna dopo i 25 anni? Dalle tue parti? Basta. Dalle mie parti? Ma perché? Sì. No, non lo so. No, assolutamente. Ma figurati. No, ma perché? No, ma va, fino a 35 va benissimo. Vabbè, la Boschi, la Boschi cosa ne ha? 30, non lo so, 33, 34, non ho la biografia di Marielle La Boschi. Comunque, insomma, adesso il tema è questo, caro Vincino, che dovrebbe fare? Cioè, adesso ci sarà questa mozione di sfiducia che non partorirà nulla, chiaramente. Assolutamente. Se non qualche 4 ore di insulti dei 5 Stelle, dei leghisti e di quelli di Brunetta, là, come dire, vabbè. Insomma, queste cose così inutili della Camera dei Deputati. Ho capito, no? Inutili, però ieri giustamente Di Maio, l'ho visto da Lilli Gruber, ha detto a Paolo Mieli che gli imputava la stessa cosa, diceva vabbè, ma scusi, si chiama parlamentarismo, che dobbiamo fare? La democrazia, in Parlamento si presenta una mozione di sfiducia, non abbiamo i voti, e che dobbiamo fare allora? Ci spariamo in testa? No, parla uno di ogni partito e via. Là invece cosa fanno? Usano un trucco che parlano invece in 40, ognuno di questi 40, 80 dicono le stesse cose praticamente. Ho capito, ma quindi aboliamo il Parlamento? No, allora. non l'aboliamo assolutamente, non è che è qua, cioè è come quel Parlamento che si riunisce 230 volte per non eleggere i giudici della Consulta. No, non l'aboliamo, è così. No, lo teniamo, ma non serve a niente. Non serve a niente. No, non è che non serve a niente, con la legge elettorale che c'è oggi, quella là che dà la 400, insomma, così assolutamente no. Se ritorniamo al proporzionale puro, allora servirà il Parlamento. Ecco, lezioni proprio. Tu, Aurora, hai seguito tutto, lezioni strettamente di. Io prendo lezioni dalla nostra madre costituente che ha riformato la nostra Costituzione, Maria Etruria Boschi, quindi. Maria Etruria Boschi. Tra l'altro, a proposito di fiducia. Questa Vincino non è male, Maria Etruria. Assolutamente non è male. Non è male. Poi anche è cresciuta, il livello è cresciuto. Poi anche era un po' sovrachili e come, ma invece ora è cresciuto. Poveri etruschi, devo dire. No, aspetta, Vincino, ma Aurora, dai l'autorizzazione a Vincino se vuole di rivendersi in una sua vignetta. Se gli capita l'ispirazione. Maria Etruria Boschi. Perché ti ricordi che la Boschi voleva cacciare i vari ministri imbarazzanti un tempo, ti ricordi la cancellieri perché al telefono parlava con la famiglia di Gressi, è vero. Aveva detto che era una vicenda triste perché insomma metteva in gioco la fiducia verso le istituzioni, anche la Boschi, insomma, sì. Ti ricordi? Sì, è vero, oggi Libero non abbiamo le telefonate della Boschi, è vero, perché... però oggi Libero va a ripescare il fatto che quando la cancellieri aveva il figlio in Fonsai ed era ministro all'interno, la Boschi diceva si deve dimettere per il figlio, e qua c'ha il babbo, il fratello, la cognata e vabbè. E pure le azioni. Però. È vero, c'è anche la cognata, c'è anche la moglie del fratello, quasi mamma della principessina. Che ha fatto la cognata? Che lavorava figlia. Anche lei alla Banca Etruria. Ho capito, ma non è che era una situazione a delinquere. No. Qua stiamo esagerando voi. Io sono garantista per natura. No, assolutamente. Io non sono figlia di banchiere, quindi anch'io sono molto garantista. Sei molto garantista, te chiami Banca Etruria Boschi. Maria Etruria, no, questo Maria Etruria, da quella terra. Gli etruschi a me piacciono. Vabbè, quelli di una volta. Comunque, si deve dimettere o no, Vincino? Non si è capito? No, non c'è nessun tuttora non c'è nessun motivo perché debba dimettersi, a tuttora. Poi non lo so, il problema è questo, è che ora quando usciranno fuori le intercettazioni... Ci sono tre filoni d'inchiesta, aspettiamo l'inchiesta, va bene. Ostacolo alla vigilanza, fatture false, prestiti a manager... Ho capito, ma il concetto è cosa c'entra lei di persona? Cioè, questa è... Allora, perché è uscita dal CDM, dal Consiglio dei Ministri, quando si parlava della banca Etruria? Perché c'era suo padre. Quindi qualcosa di interessante dovevano dibatterlo, perché lei già lì si sentiva in conflitto di interesse, sì. A parte che la Leopolda ha detto che era in aula. Sì. No, e per giustificare la sua essenza Leopolda, pare dagli stenografi che non sia così. Vabbè, ma lì doveva dire, è chiaro che doveva dire: scusate, era inopportuno per me presentarmi dopo tutte le polemiche. Sì, si è incantato dai boschi incantati lì. E... No. Non sono incantato dai boschi, lo so. Vincino, tu sei incantato dai boschi? Sì. Devo dire sì. Cioè, io sono onesto, facevo tutte le satire, dico la verità. Sì, sono incantato perché io ero abituato a una politica che aveva delle donne orribili, praticamente, anche brave, ma... negli anni 60-70 erano terribili, E quindi insomma lascialo un attimo godere di questo, insomma, sorta sì, lasciamolo godere, sai che io non lo castrerei mai. Ma è pericolosa questa trasmissione, Se uno vuole con la Boschi ci mancherebbe. Rischi di iniziare la trasmissione integro, caro Vincino, e finire non si sa come. Quando arriviamo alla ricetta, poi chissà che cosa mi farà. No, non lo so. Alla ricetta poi facciamo i rognoni. Non lo so. La ricetta di Aurora Lussana. A proposito, Aurora, chiedono la foto? Chiederebbero un selfie. Sai che ieri c'è un ascoltatore che ha messo tutte le foto di Veronica Gentili che ci ha mandato quando è ospite, ha fatto un calendario. Ma non c'è competizione. Ma non c'è nessuna competizione. Ma non c'è nessuna competizione. Ti mando il selfie di quello che ho messo su stamattina. Va bene, dai. Il brodo. La gallina bollita. Fammi una foto della gallina bollita, va bene. Fammi una foto della gallina bollita, va benissimo. Comunque facciamo così: andiamo al traffico, attendiamo la foto della gallina bollita e intanto preparatevi a Renzi che ce l'ha coi giornali, eh? Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Signore Milan, hai sentito Renzi? Ha detto che ci ha tatuata la bandiera del PD sul cuore! State attenti voi, Renzisti, però, che qui lui ci ha dato sul cervello, ci ha tatuato le fasce di combattimento, State attenti! Si può parlare democraticamente della Bosnia. Berlusconi gli ha fatto una testa quanto una campana, ma adesso alla signorina non si può dire nulla. Ciao Milan, questa mattina mi sono sentito davvero un debosciato, ero in ferie, sono stato in letto fino alle 8:30 e non ti ho neanche ascoltato, però ho appena finito di ascoltare il podcast, sono ancora debosciato? Sentendo ieri Renzi come incitava gli adepti Vanda Marchi, è una dilettante, da fuori però c'è proprio una dilettante, bravissimo, complimenti, potrebbe avere qualsiasi cosa, grandissimo. Cara la mia bella Lussana, bene in Valtellina, che ten corona regina, brava. Hai capito, Aurora? Sì, la Valtellina è sempre nel mio cuore. Ti invitano in Valtellina. Che meraviglia, che bei posti. Va bene, che bei posti. Vincino, sei mai stato in Valtellina? La conosci la Valtellina? In Lombardia. Dove nasce l'Adda? L'Adda. Sai il fiume palindromo? L'Adda, Adda. Però dai, Vincino, c'hai sa tutto della Sicilia, notte, la Sicilia, la Sicilia. A proposito, vuoi dire qualcosa a Vecchioni? a Vecchioni che ha detto che vivi... cretino totale, va bene, non è che tralasciamola, dai, è una storia... Cioè... È una storia triste. Assolutamente, insomma. Ma comunque il traffico non l'ho sentito, che dovevo sentire una cosa sul traffico. Io non ho sentito pure io il traffico, ho sentito... No, è andato in onda, forse avete avuto... Sì. Cantù non si è sentito. Ma no, è andato in onda. Risento il podcast, guarda, io di solito ascolto solo Nicoletti in podcast, farò sto sforzo, ti ascolto anche te, Milan, ti ringrazio, e poi ascolti te stessa, cioè di fatto. No, vabbè, ascolto anche la trasmissione dei gay, Nicoletti e la trasmissione sui gay, ascolto poi ogni tanto. Cos'è la trasmissione sui gay? Quella è lo speciale che fate tutti i giorni sull'omosessualità lì, cos'è? Ma cos'è? No, quello della sede, divertentissimo. La zanzara, bellissimo. Ah, ecco, lo speciale sui gay. Sì. Va bene. Perché lo speciale sui gay? Perché sono gay conduttori, dici? No, ma no. Non credo proprio. No, ti assicuro di no. Che Davide, non mi sembra due dei maschi. No, perché parlano sempre di omosessualità. Per quello. Vabbè, comunque, secondo me vince la palma nettamente dell'uomo che alla Leopolda ha fatto la dichiarazione del secolo è Oscar Farinetti. Ha detto Renzi ora si concentri ad abolire la guerra, giuro Vincino, ad abolire la guerra. Sentite qua, la ricetta. Ma abbiamo dimostrato infinite volte che possiamo realizzare cose irrealizzabili. La Leopolda ne è un grande esempio. Rispetto tra gli umani, abolire la guerra. Io vorrei che l'Italia decidesse di non esportare più armi da guerra. Va bene. No, comunque da Firenze il segnale è stato chiarissimo. Un lungo, lunghissimo viale dal tramonto che ormai è stato imboccato dal renzismo. Dice? Ha perso completamente il contatto con la realtà. Tanta arroganza, che dici? La sconfitta in Francia la proprio. La sconfitta in Francia non ti ha galvanizzato. Ci sono vittorie senza gloria e sconfitte gloriose, quella è una sconfitta gloriosa, ricordatelo Vincino, la Le Pen e dunque Salvini hanno fatto una sconfitta gloriosa in Francia, proprio terrificante, no? Sì. una non l'hanno acchiappata, chi c'è la Boschi, chi c'è la Marine Le Pen, cosa ti devo dire, tenetevi la Boschi, mi prenderei la Marine Le Pen, come i genitori devono star meglio la Marine Le Pen, effettivamente anche i genitori di Marine Le Pen diventa il fascista di Le Pen, guarda, è una cosa, guarda, quello con l'occhio attuppato, quello ex parà ambasciatore di Algerini, è una cosa, guarda, salutiamo ovviamente Le Pen senior, salutiamo Le Pen. Ho capito una cosa, le generazioni, allora la politica precedente era gente di aveva il problema dei figli, no? Sì. I politici della prima Repubblica, questo è il problema dei padri perché sono giovanissimi, è stupenda questa cosa qua, no? Bisogna distruggere le famiglie, il politico deve essere senza famiglia. Il socialismo in Francia che ha fatto il bunga bunga con Sarkozy, ha distrutto il socialismo francese. Chi è che ha fatto il bunga bunga con... Ma chi ha distrutto? Hanno sette regioni socialisti, hanno distrutto. Vabbè, insomma, adesso siamo finiti a discutere di Marine Le Pen, ma io vi ho chiesto se Renzi ce la farà e invece no. Se ammazza il padre ce la fa. Questo l'abbiamo capito, se ammazza il padre. Essere senza famiglia, questo è il punto. Anche nella Lega, non è che tutti senza famiglia. Ecco. Per Aurora invece ha imboccato una lunga discesa per il viale del tramonto. Anche Andreotti si disse di questo negli anni 60 di Andreotti. Si disse la stessa cosa di Andreotti. Secondo me ha perso anche molto charme mediatico, insomma. Quello un po' sì, Berlusconi nel 95 la discesa. Esatto. Berlusconi è finito nel 95, è vero, ricordo. Effettivamente. Adesso che Renzi e Renzismo sono finiti, no, però erano tutti nervosetti alla Leopolda e anche, non so, questa divinazione, vinceremo noi domani se andassimo alle elezioni. Giorni complicati per i giovani della Leopolda, un po' complicati, va bene, effettivamente sì. Comunque adesso arriva la mozione, caro Vincino, ti faccio ascoltare una persona che stimi moltissimo politicamente, lo so, Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Vabbè, calmati. Senti qui cosa dice. Le annuncio, le do questa notizia, che il Movimento 5 Stelle depositerà nelle prossime ore una mozione di sfiducia, questo lo possiamo fare come parlamentari della Repubblica rispetto al Ministro Boschi.